parlato molto di te e del tuo futuro in questi giorni. Ti chiedo se hai avuto modo di... Ho già detto tutto e non voglio tornare sull'argomento. Siamo concentrati sulla partita, la cosa più importante adesso è giocare le partite, cercare di completare, ecco, quello che abbiamo fatto, il buon campionato, di finire nel miglior modo possibile all'Europa League. Ecco. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. È stato in fuga per un'infinità di chilometri e abbiamo assistito al suo calvario. A un certo momento ci siamo avvicinati con la nostra macchina, Liesore era in difficoltà. Con un cinismo forse degno di miglior causa, ma col proposito segreto di rendere onore al lavoro di questo ragazzo e di tutti i ragazzi che fanno fatica andando in bicicletta, io ho martirizzato questo giovanotto. Una bella soddisfazione, Liesore? Mi prendono? No, ma ancora una quindicina di minuti sul gruppo. No, non ci credo. Ma vuole che le racconti delle bugie, le garantisco, ha una quindicina di minuti sul gruppo. Non riesco a parlare, la città comincia a piangere. Mi prendono dietro. Non la prendono, ancora 7 minuti, Liesore, forza. Se salite, amici. È finita la salita, Liesore. Guardi, l'ultimo sacrificio poi è fatto. Liesore poi l'hanno preso, quella tappa del Giro non l'ha vinta, la voce che avete sentito insieme a quella di Lucillo Liesore è quella di Sergio Zavoli, mancato oggi a 97 anni. Carissimo Pier, ciao. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo pensato di cominciare così perché Sergio Zavoli, così come tanti altri, ma in realtà non molti, sono un po' i papà, oltre che della radio, del racconto sportivo. Allora, affido te su Zavoli, il tuo radio tweet di oggi. Insomma, è doveroso partire da lui, è stato uno dei grandi giornalisti italiani, tout court, quindi di ogni materia, ha raccontato tutto, ha raccontato per esempio gli anni duri della Repubblica, la notte della Repubblica, è stato un testimone assoluto, straordinario, vigoroso di questi anni che abbiamo vissuto e c'è sicuramente un legame con lo sport, a dimostrazione del fatto che lo sport è parte della vita, la più seria delle cose futili o la più futile delle cose serie, ma certamente ha contribuito, forse non a caso, insomma, il ciclismo l'abbiamo sentito in questo spezzone, perché il ciclismo è uno sport che assieme al calcio, assieme ad altri, ha contribuito a costruire un'identità, un'idea di nazione, soprattutto dopo il secondo dopoguerra. Straordinario giornalista sportivo, uno dei miei maestri, Massimo Corcione, ripete spesso che i giornalisti sportivi hanno da subito il compito di mettere insieme il resoconto ma anche già l'analisi, è una delle pochissime aree di questo mestiere nella quale viene richiesto subito di dare un giudizio, di trovare una sintesi, di trovare una spiegazione, non di limitarsi banalmente, anche se non c'è nulla di banale, al racconto delle cose. Quindi stiamo parlando di un gigante, stiamo parlando di un grande giornalista, di un grande maestro e di un uomo che ha vissuto una vita, penso, densa, lunga, piena di eventi e lo abbracciamo la sua famiglia, ma insomma è l'ennesima dimostrazione del fatto che lo sport ha pienamente dignità nel racconto di un popolo, nel racconto di una nazione, nel racconto di un modo di stare insieme e può essere raccontato come lui ha fatto in maniera assolutamente alta e nobile. E lo sport ha piena dignità, noi ne stiamo parlando tanto in queste settimane, lo faremo molto anche oggi, ha piena dignità anche di essere considerato non un passatempo, ma qualcosa che nella ricerca di normalità che deve esserci in questo paese per uscire dall'emergenza deve essere in primo piano, deve, ripeto, essere in primo piano nel dibattito pubblico, compreso quello politico, ma oggi avremo ampio spazio per parlarne. Adesso, carissimo Pier, ci dedichiamo alle nostre minutaglie, si fa per dire, nella cronaca sportiva. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, nelle nostre forze per cercare di dare il massimo, arrivare più in alto possibile. Dovremmo giocare la partita sapendo che potrebbe non esserci un domani e quindi per questo motivo, ripeto, non dobbiamo avere rimpianti. Non dobbiamo avere rimpianti. Nostra forza oggi è che fisicamente e psicologicamente stiamo bene. Magari ultime 3-4 partite è cambiato che tutta squadra un po' si preoccupa di non subire gol, un po' tutti noi. Non bastano portiere o altri 2-3 che stanno in difesa. È cresciuta la, come dire, la tigna, la cazzima dentro. Siamo pronti, sappiamo che affrontiamo un avversario duro, potrà essere una partita sporca e che dovremmo sporcarci. Mi è stato chiesto se per me è importante. Non conta se per me è importante, è importante per l'Inter. È importante per l'Inter. Allora, noi partiamo da Conte normalizzato, carissimo Pier. Intanto diamo tutti i contatti per intervenire. Siamo in onda, lo ricordiamo, fino alle 15.30. Numero verde, prenotatevi già adesso. Vi dico, alle 15 ci sarà proprio uno spazio dedicato alle telefonate da casa, quindi prenotatevi. 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta. Poi lo ripeto, 349 238 6666, sms, whatsapp, tema libero, non necessariamente soltanto Conte, l'Inter, l'Europa League che riparte oggi. Potete parlare di Ronaldo, di quel mal di pancia svelato ieri da France Football che risaliva qualche mese fa. Potete parlare, e noi parleremo molto oggi, anche di altro sport, parleremo di pallacanestro, parleremo di tennis. Insomma, tema libero, tutti convocati, 800 24 0024. Però partiamo, per Luigi. Beh, intanto partiamo dalla suggestione di questa Europa League. Io spero e credo che, visto che abbiamo davanti un mese di agosto straordinario, strepitoso, poi verso il finale della settimana avremo la partenza di Sua Maestà la Champions League. Si giocano 26 partite in 19 giorni, questo è quello che ci attende, tutte partite di altissimo livello. Io spero che Inter e Roma abbiano in testa di giocare ventre a terra per vincere l'Europa League. Sì, sì, ma penso che... Io penso che da un punto di vista pratico, ma questo vale purtroppo anche per le nostre rivali, mettere la Champions e l'Europa League fuori dal classico calendario aumenti ulteriormente le motivazioni e diminuisca ulteriormente le distrazioni, nel senso che sulla Champions le distrazioni non ci sono a prescindere, ma sull'Europa League in qualche caso ci sono state, nel senso che qualche volta è capitato che squadre italiane, penso a un Villarreal Napoli con Mazzarri tanti anni fa alla vigilia di una sfida a scudetto contro il Milan, ma parlo veramente di probabilmente di 10 anni fa, forse 9, vabbè, ma insomma c'è un dettaglio, ci sono stati dei casi nei quali la Champions, ma direi soprattutto l'Europa League, che ovviamente ha un prestigio lievemente inferiore, è arrivata in concomitanza con grandi sfide di campionato. Adesso no, quindi adesso siamo in un tipo di scenario mai visto prima, che di solito è quello delle competizioni per squadre nazionali, e cioè di grandi appuntamenti che arrivano a fine stagione, nei quali chi avrà più benzina, chi avrà più energia, chi avrà più lucidità potrà portare a casa il trofeo. Quindi, sono molto curioso, con la Pier, forma della partita secca che rende tutto ancora più liquido e quindi più possibile, e, insomma, buon divertimento. Più liquido non l'avevi ancora detto? No, è un po' quindi, che non lo dicevo. Ecco, quindi l'abbiamo detto anche per il mese di agosto. No, volevo dirti, sono molto curioso, Pier, sono molto curioso di vedere alla fine chi avrà il vantaggio maggiore da questa strana formula, sia per l'Europa League che per la Champions League. C'è chi ha smesso 2 giorni fa di fare il campionato e magari può essere stanco, ma certamente è in piena condizione. Chi riparte dopo un mese di sosta, penso ai tedeschi. Chi non gioca da fine febbraio, e penso ai francesi. Io faccio fatica qui a immaginarmi chi possa avere il vantaggio maggiore o lo svantaggio minore. Sì, io penso che... così in astratto e con tutti gli scongiuri del mondo penso che le italiane arrivino bene, possano arrivare con un vantaggio, nel senso che qui sono state tante situazioni diverse. Noi siamo stati quelli che hanno giocato fino all'ultimo e che quindi praticamente non hanno vissuto neanche un momento di pausa. Ce l'avrà un po' l'Atalanta, ecco, l'unica italiana che avrà un po' di pausa fra l'ultima partita, e forse potrebbe essere buono anche per riposare, perché nelle ultime gare l'abbiamo vista un po' stanca. Però mi sembra meglio, astrattamente mi sembra meglio arrivarci comunque con delle partite sulle gambe, con un ritmo partita ormai già formato, con un ritmo anche agonistico formato, rispetto a chi come le francesi ha giocato magari soltanto la Coppa di Lega qualche giorno fa e tante amichevoli, chi come i tedeschi si è sbrigato nel ricominciare alla faccia del lockdown subito con grande efficienza, sì, però poi ha finito il 30 giugno la stagione, ha finito la stagione in netto anticipo, e quindi insomma secondo me siamo messi sulla carta, siamo messi bene, poi sta a noi ovviamente trasformare tutto questo in un vantaggio, ma ho sentito anche allenatori, giocatori, insomma mi sembra che sia abbastanza unanime questo tipo di ragionamento, meglio le gambe magari un pochino più stanche rispetto a chi non ha proprio giocato, ma con il ritmo partita e ripeto soprattutto con l'abitudine, anche l'abitudine a giocare a porte chiuse, che è un altro sport, perché comunque alcuni punti di riferimento, alcuni segnali non ce l'hai, parlando anche con i giocatori questa cosa mi sembra abbastanza chiara, è un altro sport, poi è sempre giocare a pallone 11 contro 11, però in certi momenti la testa soprattutto fa fatica a immaginare di essere dentro un grande impegno agonistico. Allora, si parte dall'Inter e quindi partiamo da qui anche noi, ma poi cercheremo anche con i nostri interlocutori e anche con voi 800 24 00 24 di allargare un po' la visuale. Si parte con l'Inter questa sera ore 21 a Gelsenkirchen, Inter-Getafe, gara secca, la si può vedere su Sky. Matteo Barzaghi, ciao. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao. Allora, ci racconti un po' le ore della vigilia dell'Inter lì in Germania? Sì, allora, partiamo dal presupposto che arriviamo da giorni abbastanza complicati dal punto di vista proprio della cronaca di quello che accade nell'Inter, l'avete seguito con le dichiarazioni del post Atalanta. Sì, qualcosina abbiamo detto, Matteo. Esatto, per fare una sintesi dopo tutto quanto accaduto e soprattutto l'intervento del presidente Zhang, siamo arrivati a una tregua, quindi una tregua dal punto di vista societario che permette a tutti quanti di focalizzarsi solo sull'Europa League. Dal punto di vista della squadra invece devo dire che ho trovato una squadra molto serena, molto tranquilla da quel punto di vista, non infastidita assolutamente da quello che succede intorno, e ieri ne parlavo con Andanovic, il quale mi diceva: a noi tutto questo bla bla bla non ci interessa, cioè a noi ci interessa soltanto entrare in campo e provare a fare il meglio possibile. L'Inter comunque, vista Bergamo, anche fisicamente sta molto bene, per cui devo dire che dopo un periodo di difficoltà in cui l'Inter dal punto di vista dei risultati ma anche delle prestazioni non sembrava più essere la squadra vista a inizio stagione, nelle ultime partite invece tra Genoa, Napoli e Atalanta ho rivisto quella squadra là, e soprattutto col 3-5-2. Sì, ha cambiato basso, e col 3-5-2 io credo che alla fine di tutto la squadra si esprima meglio, per cui anche stasera la vedremo così, senza il trequartista e senza Eric. Adesso ci arriviamo su questa cosa, però Pier, insomma, spendiamo le ultime due parole, speriamo ultime due, poi magari domani ci dobbiamo ricredere e c'è un altro capitolo del tormentone. Insomma, ieri abbiamo visto Conte normalizzato, Andanovic che dice: noi questi bla bla bla non ci interessano, ma del resto se avesse detto il contrario si sarebbe dovuto rivolgere direttamente dentro lo spogliatoio al suo allenatore, quindi per una volta non poteva prendersela con nessun altro. E io non so se sia vero quello che ad esempio oggi scrive la Gazzetta, e cioè che Zhang abbia detto a Conte: siamo anche disposti a spendere di più per darti una squadra subito vincente, ma da oggi basta bordate, una sorta di ultimatum, non so, di tentativo estremo di normalizzarlo. Mi sembra molto plausibile. No, ma io penso che all'Inter hanno preso Conte perché lo considerano bravo, e credo che Conte in questa stagione abbia confermato di avere delle qualità, abbia confermato anche di avere dei difetti. La cosa è molto semplice, è molto cartesiana, cioè qui c'è un allenatore esigente che ha fatto vedere già delle cose importanti, che ama prendersi la ribalta, i poteri, che quando c'è qualcosa che non gli piace urla, e può anche farlo, ma deve farlo secondo me al chiuso, sì, di una stanza, sottovoce. Pubblicamente, ecco. Quindi secondo me questa ricostruzione è molto, non so se sia vera, mi fido, ma soprattutto sarebbe molto logica e secondo me molto opportuna. Cioè non conviene all'Inter risolvere oggi il rapporto con Conte, non conviene neanche a Conte. Ma no, non conviene a nessuno. È chiaro che la sua posizione dopo le dichiarazioni dell'altro giorno si possa essere indebolita agli occhi della società, nel senso che se la società se la lega al dito, e ha tutto il diritto di legarsela al dito perché sono dichiarazioni gravi quelle dell'altro giorno, può anche decidere di arrivare a una soluzione diversa. Però secondo me non sarebbe la scelta giusta. La scelta giusta è continuare con Conte, un po' io ti cambierò da una parte e dall'altra, sì, cioè cercando di venirsi incontro, chiedendo a Conte una maggiore attenzione alle sue uscite mediatiche, e probabilmente Conte chiederà qualcos'altro alla società, che però mi sento di dire già ha fatto tanto, perché perché ripeto, tutti gli allenatori in Italia hanno qualcosa di cui lagnarsi, cioè pensa a Inzaghi con la panchina lunga che non ha, pensa a Fonseca, sì, nello stato di incertezza di quello vissuto, ma pure Sarri, voglio dire, Sarri, la principale attenuante per un gioco non ancora all'altezza e per una mano non ancora così visibile è anche il fatto che Sarri ha una squadra fortissima, ma che certamente non è in linea con la sua idea, no? E quindi è, insomma, a me sembra che l'Inter abbia fatto tante cose. L'ultima cosa è Sanchez. Comunque mi sembra che l'Inter sia sul pezzo, poi gli errori li fa come qualsiasi altra società. Sì, ma ripeto, Pier, perché tanto è da lunedì che ne parliamo, anzi da domenica, tutto questo andrebbe trasferito a Conte per ridurlo almeno dal punto di vista comunicativo alla ragione. Aggiungo, ringrazio e saluto Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan. Ciao, buongiorno. Così, in attesa dell'ultima puntura da Gelsenkirchen, perché poi insomma le persone si misurano da quello che scelgono e fanno, oltre che dalle normalizzazioni a parole, volevo chiedere se a te convince, insomma, e tiene sereno per stasera il Conte normalizzato che hai visto ieri. No, se andiamo a dormire tranquilli, intendo, se tu fai la tua prima pagina col risultato e via. Col Getafe sicuro, penso che passa il turno. Passa il turno. Normalizzare Conte è impossibile, perché da Siena in avanti ha avuto problemi di questo tipo sempre. Devo dire che stavolta ha esagerato anche nella tempistica, però forse era studiata, perché lui le cose le studia molto prima, così come quella dei calendari la studiò 2 giorni prima, ne parlava con la squadra 2 giorni, per cui arrivare dopo una vittoria, arrivare a un punto dalla Juventus, prima di una importante partita di ottavi di Europa League, e fare quell'uscita, evidentemente è una contestualizzazione che lui ha studiato, non se l'è inventata, no, questo, certo. Mi sembra chiaro, era ampiamente premeditato. Matteo, allora abbiamo detto l'Inter di Conte questa sera 3-5-2 senza Eriksen, dovrebbe essere anche senza Skriniar, il che mi fa pensare che è il millesimo segnale degli ultimi 4 mesi a chi gli ha preso Eriksen, che diciamo è poco gradito, e probabilmente anche un segnale chiaro per il futuro, cioè nell'Inter del futuro non c'è Skriniar. Ma questo non lo so dire. Posso aggiungere però a tutto quello che avete detto che la situazione non è risolta, cioè a fine stagione dovranno fare qualcosa, perché la frattura che c'è è una frattura evidente e difficilmente ricomponibile tra Conte e la dirigenza, per cui sicuramente quello che è accaduto anche con Zhang è servito per rasserenare un secondo gli animi e pensare a questa competizione. Però poi il problema andrà risolto in un modo o nell'altro, trovando un compromesso, qualcuno che rinuncerà a qualcosa. Beh, Matteo, è nella storia, cioè i cinesi sono quelli della riva del fiume, sono quelli che aspettano, quindi voglio dire, è evidente che c'è una urgenza, che è la partita di Coppa, quindi la Final Eight da superare per dare un senso alla stagione, perché il secondo posto a un punto dalla Juve non significa nulla. È veramente rischia di essere un'illusione ottica quel punto, ma sì, basta, anche perché la Juve le ultime 2 non le ha giocate con esatto. Cioè, non è un test a testa, sì, il che non significa nemmeno che non sia comunque ridotto il gap, anche se non è di un punto, è certamente meno lungo Juve, tutta la stagione di quello che sì, si è visto. Ma l'ha ridotto la Juve il gap, dai, perché quest'anno hanno giocato tutti il Ciapanò. Sì, però cioè, noi prendiamo, io ricordo Allegri l'anno in cui inizia malissimo e a Sassuolo rischia quasi il posto. Lui da un certo punto in poi dice: noi da qui in poi facciamo un cronometro, pensiamo solo a noi, dobbiamo andare oltre gli 80 e poi vediamo dove siamo arrivati. A me piaceva molto quell'immagine presa e messa sull'Inter di quest'anno. La cronometro dell'Inter è finita comunque a 82, punteggio che riduce il gap qualunque sia l'andamento di quello davanti. Poi quello davanti ha fatto 83 per dei meriti suoi, ma anche ne avessi fatti 87, 88, 90, sarebbe comunque molto meno rispetto a quello che ha ereditato. Ma con l'anno precedente non c'è partita, ragazzi. L'anno precedente è un anno in cui l'Inter è in Champions a 2 minuti dalla fine con la traversa in casa contro l'Empoli. Quest'anno è un anno in cui l'Inter è andato in testa fino a marzo, fino a poco prima del lockdown, era in corsa, ha perso i 2 scontri diretti con Lazio e Juve e questo l'ha fatta un po' scendere, un po' scivolare, poi ha avuto delle occasioni post lockdown per riavvicinarsi, non le ha sfruttate o perlomeno non le ha sfruttate fino in fondo e ha chiuso in una posizione che è seconda. Sono d'accordo con Ivan, non è meno uno, non è un corpo a corpo perché era meno 7 a due giornate dalla fine, però sicuramente il passo avanti c'è stato. Sì, però ho capito, la Juve è influito, certo, la Juve è influito, non c'è dubbio. Io non voglio essere l'avvocato del diavolo, ma hanno speso 200 milioni di giocatori, hanno speso 100 milioni di allenatori e sono 300 cocuzze. Se è vero che le risorse, i fatturati e tutto il resto nel calcio contano, diciamo che non puoi fare un paragone con l'anno scorso. Quest'anno è arrivato Lukaku, è arrivato Sanchez, Moses, Lazaro. Tu sai come ti risponderebbe Conte, no? Sono andati via Icardi, Perisic, Nainggolan, cioè diciamo i tre giocatori sulla carta più forte dell'anno scorso. Perisic è una riserva del Bayern, Icardi l'hanno mandato via perché gli faceva schifo. Nel senso, voglio dire, non gli piaceva tutto quello che stava attorno, adesso non voglio esagerare. Poi chi? Nainggolan, per favore, hanno detto peste e corna di Nainggolan. Se queste sono le perdite, francamente, è arrivato Barella, è arrivato Sensi, è arrivato Godin che ha fatto male, però hanno fatto, è arrivato Ashley Cole, insomma, ragazzi, hanno rifatto la squadra, cioè hanno preso Eriksen, gliel'hanno preso, non l'ha voluto, non l'ha voluto, tutto quello che ti pare, però hanno rifatto l'Inter. Sì, no, no, non il pacchetto preconfezionato. Aspettate che devo lasciare Matteo Barzaghi che è sul posto e lo lasciamo ai suoi collegamenti e al lavoro per Sky. Uno dei posti più brutti d'Europa. Veramente che il Gelsenkirchen ha avuto la fortuna di visitarla per questioni lavorative calcistiche. Stadio bellissimo, città un po' meno. Tra l'altro io sono andato anche nel vecchio stadio e devo dirvi che il vecchio stadio era pure quello, diciamo, in linea con la cittadina, con tutto il rispetto per la cittadina di Gelsenkirchen. L'arena posso chiudere un attimo per salutarvi? Sì, vai. Io penso che alla fine la sintesi di tutto si riduca a quella che è l'aspettativa dell'Inter nella società e nell'allenatore. Cioè, se la premessa era veramente basta avere l'1% di possibilità di vincere e dobbiamo crescere, il risultato è stato centrato. Cioè, il problema è che poi, secondo me, qualcuno si è fatto ingolosire da quella vicinanza reale oppure no, giudicatelo voi, dalla Juventus, e lì forse è salito un po' di amarezza per non riuscire, nel momento in cui si poteva forse agganciarla, non riuscire a farcela, per cui evidentemente l'Inter non è ancora pronta per fare quello. Buttare tutto a mare mi sembrerebbe forse sbagliato, però dipende, alla fine lucidamente il secondo posto, se ti avessi detto ma all'inizio certo. Ma Matteo, ma è tutto un effetto Conte, perché Conte, come tu dici, è giustissimo, cioè Conte ha fatto ad oggi secondo me una buona stagione, non una stagione clamorosa e non una stagione deludente, ha fatto una buona stagione a luce di quello che diceva Ivan, gli investimenti che ci sono stati, il fatto che lui è bravo e ha fatto una buona stagione, poi vediamo adesso con l'Europa League. Tutto questo perfezionismo e questo fatto di dover mettere in discussione una squadra che ha fatto una buona stagione, ha fatto il suo percorso di crescita, nasce dal fatto che Conte è così, per cui un altro allenatore avrebbe gonfiato il petto in conferenza stampa dicendo abbiamo portato avanti un percorso importante, siamo cresciuti e l'anno prossimo vedrete. Sarebbe stata mezza polemica. Le polemiche ci sono perché Conte è così, è incontentabile, è il suo bello e il suo brutto. Ieri lo dicevo, non volevo fare della psicanalisi da strapazzo, ma secondo me quando tu prendi Conte, in qualche modo questo tipo di uscite, ripeto, sbagliate, le prendi anche, le metti anche in considerazione, perché hai voglia di avere uno che sia più folle, più pazzo, più incazzato, più perfezionista di te. Sì, poi vediamo però Pier, fino a che punto hai voglia di prendere tutto il pacchetto intero. Questo lo scopriamo fra 20 giorni. Allora, aspetta Pier. Non c'è dubbio. Aspetta, allora saluto Matteo Barzaghi, lo ringrazio. Ciao Matteo. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao. Alla prossima. Tu pensa che io avevo un altro sacco di argomenti di cui parlare con Ivan Zazzaroni e anche oggi Pier Conte si sta mangiando quasi tutto. No, invece fammi chiedere della Roma, cosa sta succedendo, perché notizia di oggi la prendo dal Corriere dello Sport, il sito: Fahad Al-Bakr ha rinunciato alla Roma, non ha fatto l'offerta. Ieri eravamo qui a parlare con Matteo Pinci, che rischiava questo imprenditore cuvetiano di prendersi la Roma praticamente al buio, quindi senza il tempo di dare un'occhiata a tutti i complessi documenti della galassia societaria intorno alla Roma. Pare oggi, passano neanche 24 ore, che in campo resti solo Friedkin. Cioè, quindi ci siamo o no, Ivan? Io sto pregando, sono andato alla Beata Vergine a pregare Mi auguro che mi assista e assista anche i tifosi della Roma e che se ne vada a pallotta. Friedkin è l'unica soluzione praticabile in tempi decenti, perché la Roma ha problemi seri, anche non voglio dire a livello di iscrizione, ma quasi. E credo che anche la D l'abbia capito da molto tempo e quindi stia sollecitando questo tipo di soluzione. Potrebbe essere una soluzione nell'arco dei 4, 5, 6 giorni, non credo molto di più. Ma c'è ancora una percentuale che può farla saltare. Tu sai benissimo che deve mettere 42 milioni per capitalizzare e in fretta. Sì. Pallotta, 42 la sua parte, sono 60 ancora. Sì, e 18 quella degli altri soci. Esattamente, non mi sembra che abbia la volontà di farlo, per cui bisogna dare delle risorse a questa squadra, perché dire, cioè, è punk, riportare entusiasmo, credere in un progetto, in qualcosa. Ecco. Quindi io mi auguro veramente che Friedkin riesca a convincere con i suoi 565 milioni di buoni motivi Pallotta a salutarci, e quel giorno farò il titolo Independence Day. Ah, quindi abbiamo già la prima di non so fra quanti giorni. Magari lo cambio, però diciamo per adesso siamo messi così. Siamo messi così. Beh, insomma, sarebbe un bel titolo. No, io aggiungo, poi voglio chiedo anche a te, Pier, che cosa ne pensi. Sarebbe anche, se deve essere svolta, e deve essere svolta, che lo sia in fretta, in modo anche di consentire alla Roma di ragionare sui suoi sacrifici che dovranno essere fatti, ma senza farsi prendere con l'acqua alla gola. Io penso soprattutto a Zaniolo. Io mi auguro che resti a Roma, mi auguro che resti il simbolo su cui provare a ricostruire qualcosa, perché esattamente come per anni abbiamo detto, il calcio italiano ha bisogno delle milanesi e aveva bisogno delle milanesi. Il calcio italiano non può rassegnarsi a far diventare Roma una periferia. Io credo sia molto difficile vendere Zaniolo, perché la Juve non ha soldi, l'Inter men che meno, perché deve vendere per comprare, questo è l'input dei cinesi. Le altre non sono assolutamente accessibili, e un giocatore come Zaniolo, per l'età e tutto, minimo devi tirare fuori 50 milioni. Allora, o si presenta una società straniera quando sei veramente in emergenza, oppure il ragazzo resta qui, cioè è anche la sua volontà, perché noi stiamo parlando di un mercato. Io vorrei ci fossero tanti soldi in giro, perché venderemo anche molto di più, ma in questo momento non ci sono. Sì, ci vuole tanta fantasia. Cioè, la Juve ha perso 150 milioni col Covid. Ecco. I conti dell'Inter li abbiamo visti, quelli a marzo, e vedremo poi quelli di giugno, ma vale per tutti, ci sono pochi che si salvano. L'abbiamo detto mille volte, è uno shock simmetrico, quindi riguarda, e meno male onestamente, insomma, al di là di tutte le varie sensibilità, meno male che si è giocato, perché pensare quello che sarebbe successo, cioè noi oggi contiamo i danni per il calcio italiano nell'ipotesi che alla fine è stata la migliore possibile, cioè che si sia almeno riusciti a giocare. Pensa se non si fosse giocato. Ma poi tra un po' andranno a fare i conti anche con il nuovo formato televisivo, e voglio vedere se Sky piuttosto che metteranno ancora questi soldi. Bisogna che anche la Lega si svegli, no? Non il presidente, che mi sembra più sveglio di tutti, e capiscano che i canditi sono finiti, per cui bisogna proteggersi, rendersi sostenibili, e creare una struttura che consenta appunto al calcio, al campionato, di andare avanti. Bisogna evitare che si affloscia la torta. Lo scenario dei fondi sia una strada che può essere rivoluzionaria, certo. Cioè l'idea che il 10% della, innanzitutto che la Lega di Serie A capitalizzi, cioè che abbia un valore, che venga comprata una percentuale, il 10% quello che sarà da parte di questi fondi, questo significa stabilire scientificamente che la Lega ha un valore. Sì, però la vera rivoluzione di quella cosa lì, se succederà a Pierre, significa che poi, siccome uno arriva, mette 1,5 miliardi per prendersi il 10, il 15, il 18%, e non puoi immaginare che si vada avanti con le riunioni di condominio dove 20 valgono 20 e uno vale uno. E quello sarebbe una rivoluzione, al di là del fatto di riuscire a monetizzare immediatamente. Però ma infatti loro non sono capaci nemmeno di fare profitti, quindi servirebbe che loro aspettano soltanto che le televisioni li costringono a spendere dei soldi o fare delle cifre. Ma le televisioni sono rotte, cioè hanno capito che il prodotto non vale quei soldi, e soprattutto nelle condizioni in cui sta per ripartire, cioè ragazzi, se non entra un po' di pubblico, e gli sponsor stanno, parecchi se ne sono andati, altri stanno valutando, per cui cioè è una brutta situazione per il paese, che è la cosa più importante per noi, ma anche per lo sport e per il calcio, c'è questo problema, anche per gli altri, basket, volley, tutto il resto, anzi per loro anche di più se non entra più, sì, perché certo. È il 50% delle loro entrate. E quindi io credo sinceramente che siamo di fronte a un momento, a un autunno nero, speriamo di farlo diventare meno grigio. Grazie Ivan, ciao. A voi. Ciao. Ciao. Grazie a Ivan Zazzaroni, Corriere dello Sport, 800 24 00 24, Max da Milano. Max. Sì, buongiorno a tutti. Ciao, vai. Non mi posso esimere da farvi i complimenti, perché siete una delle trasmissioni sportive che è più gradevole, di maggior competenza e più bella da ascoltare. Ti ringrazio, questo, per una volta ce li prendiamo, no Pier? Sì. Detto questo, accolgo in pieno l'invito al tema libero, vado dall'altra parte del naviglio e vorrei parlarvi di Milan, facendo una considerazione e chiedendo un vostro parere. La considerazione è che il Milan, dopo il lockdown, è una squadra completamente trasformata, sembra quasi essere un'altra squadra, attacca, corre in avanti, ha un'attenzione maniacale sulle seconde palle, è molto reattiva, ha un'idea di gioco ben chiara e credo che questa trasformazione sul campo passi soprattutto dai tre centrocampisti, i due centrali e Çalhanoğlu, ma fuori dal campo a mio avviso ci sono delle variabili che hanno contribuito alla trasformazione della squadra. Mi piacerebbe sapere se secondo voi, non so, la preparazione atletica, il fatto che gli stadi siano vuoti, cercate di farmi sì, qual è la scintilla che è scattata, che è successo, ti dico la mia rapidamente. Sullo stadio vuoto che possa essere un beneficio io non credo, sulla preparazione sì, perché Pioli ha avuto tempo di mettere la testa, seppure tra mille difficoltà, e provare a impostare il lavoro come piace a lui. E il grande capolavoro, favorito anche dalla partenza di Suso, è stato, e secondo me è poco citato, dare ruolo e completezza a due giocatori come Çalhanoğlu e Kessié, che sono diventati due giocatori fondamentali per questo Milan. Questo è quello che penso io, Pier. Su Çalhanoğlu sono d'accordissimo, sul lockdown dal punto di vista della preparazione l'ha riconosciuto lo stesso Pioli, che hanno lavorato bene da subito. Io credo che all'inizio un minimo vantaggio paradossale per San Siro chiuso ci sia stato, nel senso che per una squadra che è oggettivamente in debito, no? Cioè il Milan di questi anni è in debito col suo pubblico così appassionato e con la sua storia, forse in quel momento lì, ti parlo delle prime due o tre partite, un piccolo vantaggio ha tolto pressione in quelle due o tre partite, poi il resto l'ha fatto la squadra. Insomma, sarebbe assurdo ricondurre tutto questo al fatto di giocare senza pubblico. Il pubblico è un valore ed è un vantaggio, però sappiamo bene, se tu parli con qualsiasi giocatore che abbia vestito la maglia del Milan o dell'Inter, che quello stadio lì è il miglior alleato, sì, se sei forte, soprattutto quando le cose vanno male, ma può diventare un problema, ti pesa addosso. 800 24 00 24, numero verde, ci fermiamo, c'è la borsa, poi apriamo la lunga pagina dedicata allo sport. Borsa. Se è sbroccato in quella maniera lì, magari qualche ragione ce l'ha. Boh, che ne sapete voi? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Cosa si nasconde dietro il grande sport professionistico? Quali interessi muove? Che volume d'affari genera? Chi investe e chi fa affari o perde con calcio, Formula 1, MotoGP e con i grandi eventi sportivi? I conti dello sport prova a raccontare il dietro le quinte, i numeri dell'economia alimentata da performance e record, vittorie e sconfitte. Sono Giovanni Capuano e con i conti dello sport vi accompagnerò in questo viaggio. In onda ad agosto, tutti i sabati alle ore 14. Vi aspetto su Radio 24. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Convocati. Siamo preoccupati per la partenza proprio del mondo del calcio, con l'idea che comunque bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa assolutamente insostenibile, parzialmente per i professionisti, assolutamente insostenibile per il mondo dei dilettanti. Senza queste modifiche, senza interventi condivisi, sempre rispettando il principio della tutela della salute, io credo che il calcio italiano, permettetemi, lo sport italiano potrebbe subire uno smacco definitivo. Quindi questo è il tema al quale noi siamo particolarmente più attenti. Noi ci contiamo su questa riapertura con gradualità, ma siamo convinti che se l'evoluzione epidemiologica lo permetterà arriveremo anche alla riapertura degli stadi. E quindi già dalla prima giornata di non... La prima giornata mi sembra un po' ottimistica, però dipende dalla prima giornata. Queste le parole ieri del presidente federale Gravina, 800 24 00 24, prima giornata che sarà quasi certamente nel weekend del 19 settembre. Carissimo Pier, adesso apriamo una lunga pagina in cui parliamo un po' di calcio prima, ma non del calcio di Serie A, e poi parliamo di pallacanestro e rappresentanza, come facciamo spesso in queste settimane, di tutto il resto del movimento sportivo, e proviamo a mettere altri tasselli in quel muro che deve portare alla ripartenza del sport in generale. Saluto Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, presidente, condivide anche lei le preoccupazioni che abbiamo sentito espresse dal presidente Gravina per la ripartenza? Certamente sì. Noi in più ci aggiungiamo che da febbraio che le squadre del nord non hanno nessun incasso, le squadre del sud da marzo, perché gli stadi sono chiusi da allora, e noi per primi chiudemmo gli stadi rispetto alla situazione epidemiologica del paese, e quindi siamo enormemente preoccupati per la ripresa, e anche ora, perché ora già alcuni processi di seri stanno avvenendo. Penso per esempio a quanto danno si sta producendo dal punto di vista dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, perché questo era il periodo dei provini e i provini non ci sono, quindi si produce un danno notevole. Sì, in teoria, Pier, va ricordato che manca più o meno un mese al ritorno in campo di tutti, perché noi chiaramente ci concentriamo molto spesso sulla Serie A, ma in realtà c'è la Serie B che più o meno sta comunque portando a termine la sua stagione, anzi la sta portando a termine, però manca la Serie C e a cascata manca tutto il resto. Poi parleremo anche del resto che non si chiama calcio, no Pier? Prego, no, volevo dire, c'è il problema in questo momento, le squadre debbono pensare ai ritiri, quindi è l'altro grande problema che è aperto ora, ma dopo logicamente ci sono tutti i problemi del riavvio del campionato, ma in questo momento questi problemi sono pesanti, così come il lavoro che stiamo facendo col comitato 4.0 che mette insieme le leghe di pallavolo maschile e femminile, da pallacanestro maschile e femminile, l'atletica. Tra di noi c'è una enorme preoccupazione. Pier, dicevi? No, dicevo che vale il discorso che faceva prima Ivan, che condivido, cioè sul fatto che gli altri sport ovviamente hanno un'incidenza della crisi ancora più forte, perché buona parte dei loro introiti passa direttamente alla botteghina, non hanno, diciamo, la garanzia comunque dei diritti televisivi, e questo stesso principio più o meno vale anche per la Serie C, quindi quello che dice il presidente è giusto e preoccupante. Insomma, fra nord e sud ci può essere una differenza temporale di 1 o 2 mesi, ma tutte le società del calcio italiano hanno vissuto un crollo, sì, uno tsunami. Totale, quindi, e come tali secondo me devono essere trattate dal governo. Insomma, io credo che alcuni passi avanti siano stati fatti nel famoso decreto di maggio, torniamo al discorso. Sì, però stiamo aspettando, a proposito di decreto, Pier, no, stiamo aspettando il decreto d'agosto. Credo che il presidente Ghirelli, esatto, e tutti gli altri lo aspettino ancora di più. Siamo oggi è 5 agosto, siamo ancora su tante cose. Presidente, mi corregga se sbaglio, più che altro delle promesse, penso ad esempio al famoso credito d'imposta di cui parleremo anche dopo, di cui noi abbiamo già parlato. Si aspettava qualcosa con un po' di maggiore celerità? Beh sì, sicuramente sì, io mi rendo conto che c'è una situazione complicata, però gli interventi... Oggi si dovrebbe svolgere il pre-consiglio in cui del Consiglio dei Ministri, e domani il Consiglio dei Ministri, nel quale dovrebbero essere varate le misure relative al credito d'imposta. Ci auguriamo nella misura che possa consentire di lenire uno dei problemi fondamentali, perché noi accanto ai botteghini, questo comitato che si è formato, che ripeto comprende basket, pallavolo, atletica, noi, vivono, le società vivono sugli sponsor e sui botteghini, non avete diritti completamente, completamente azzerate. E quindi vanno prese rapidamente delle misure in questa direzione, perché sennò altrimenti io temo fortemente la ripresa, perché nell'autunno, accanto a questa situazione, se non si allenta il protocollo sanitario, certamente tenendo conto della situazione epidemiologica del paese, se non si riaprono progressivamente gli stati, se non ci sono gli sponsor, e più nell'autunno è previsto che si rientri con tutte i tributi e la parte fiscale che è stata spostata in avanti e dovrà essere pagata prima o poi restituita, il crack delle società potrebbe essere veramente drammatico. Presidente, sì, ma senza una riapertura del pubblico, anche parziale, perché di questo stiamo parlando, sì, voi ce la fate a stare in piedi o no? Senza sponsor e senza la riapertura del pubblico, che sono le due voci fondamentali, io credo che le società rischieremo molto. Oggi termina la prima fase dell'iscrizione, molto probabilmente il risultato ci sarà con qualche ferita, però terranno i club, perché un po' di misure sono state adottate, penso alla cassa integrazione, anche se ci sono ancora ritardi consistenti dal punto di vista burocratico, dal punto di vista normativa. Questo decreto del Consiglio dei Ministri tra oggi e domani dovrebbe sanare anche questa vicenda dal punto di vista dell'iter burocratico per accedere alla cassa integrazione. L'abbassamento dei costi ha fatto reggere le società accanto ai sacrifici che sono stati fatti dai presidenti. Nei prossimi mesi la vedo veramente dura. Non si può tagliare sempre. È come un ristorante, un albergo che non è ancora riuscito a partire. Esattamente come tale deve essere. Aspetta, perché non si sente nulla, Pier. Adesso recuperiamo. No, adesso meglio. Eri sparito. Vai. No, dico che esattamente come No, allora, adesso ti recuperiamo bene, tanto c'è il traffico, quindi abbiamo tempo. Saluto il presidente Ghirelli. Presidente, buon pomeriggio, grazie. Grazie a voi. Alla prossima. Allora, recuperiamo per Luigi Pardo, 800 24 00 24. Prenotatevi, perché ricordo alle 15, poi diamo spazio alle vostre telefonate. E dopo il traffico continuiamo il nostro viaggio, questa volta parliamo di pallacanestro. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. We're at the end of games. They had a difficult time winning. Kleba, after the double team, went to Luka, takes the three and stretches the lead to 5 for the Mavs. Ringrazio presidente, vicepresidente, tutte le persone che mi hanno scelto, mi hanno permesso di essere una città importante e prestigiosa come la Vanoni Basket Cremona. Stiamo lavorando per farvi divertire il più possibile. Chi ha fatto questo grande sforzo e che ha permesso di salvare tutto all'ultimo momento. Mi fa il piacere essere tornato, vestire la maglia di Milano, grandi obiettivi. È importante iniziare con entusiasmo e quello non manca. Abbiamo messo, carissimo Pier, insieme frammenti di normalità, facendo finta che tutto sia normale. L'NBA che gioca, Cremona che si salva e rilancia, il nostro amico Gigione da Tome, l'hai visto, no? Che bello con la maglia rossa dell'Olimpia. Sì, assolutamente, no, ma sono frammenti di normalità, no, stavo dicendo a proposito di Ghirelli, ma il discorso vale per il basket, per la pallavolo, per la Serie C, per l'atletica, come diceva giustamente Ghirelli, sono come degli alberghi o dei ristoranti che hanno smesso di mettere gli scontrini, di fare le fatture, di avere i clienti a febbraio o a marzo e che non hanno ancora riaperto, cioè questa è la verità, e quindi come tali devono essere trattati dal governo. Si deve riconoscere un valore, se ci sarà la possibilità di riaprire, e secondo me è sempre meglio provare a riaprire, provare a giocare e ovviamente in sicurezza, provare a riaprire gli spalti in sicurezza, e questa sarebbe la soluzione migliore, ma altrimenti ci devono essere degli aiuti. Non è che c'è molto da girarci attorno, sono, e torniamo al punto di partenza della nostra puntata, lo sport fa parte della vita, le società sportive sono società come tutte, come tutte le altre, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri che hanno un ristorante, un pub, un albergo, una discoteca, e quindi... E quindi devono tornare centrali anche nel dibattito di questo paese, anche in questo momento. Saluto Umberto Cantini, presidente della Lega Basket. Ciao Umberto. Ciao a tutti, ciao Pier. Allora, prima di farti commentare i frammenti di normalità, mentre intorno pare che non tutti si accorgano del valore dello sport, ti leggo però questa agenzia ANSA di un'oretta fa. Un credito d'imposta del 30% da utilizzare in compensazione per campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche o associazioni sportive che svolgono attività sportiva giovanile. Questo è quanto prevede la bozza del decreto agosto di cui parlavamo prima. Per lo sconto fiscale vengono stanziati 60 milioni. Allora, dimmi intanto se questa cosa che dovrebbe essere dentro è quello che risponde a ciò aiuta, per cui vi battete aiuta, da esatto. Settimane, da mesi. Sì, l'impianto della norma è sicuramente quello che chiediamo da mesi e quello che ci è stato ultimamente segnalato come possibile e praticabile sia dal Ministero dell'Economia che dal Ministero dello Sport, dal Ministro Spadafora. I numeri sono un po' diversi e francamente ci aspettiamo uno sforzo ulteriore, perché rischia di essere un'altra volta, certo, un riconoscimento importantissimo che stiamo cercando da tempo, ma rischia poi nella pratica di essere una norma che non è così stimolante e così incentivante come dovrebbe essere nelle intenzioni nostre e nelle intenzioni delle interlocuzioni che abbiamo avuto con i ministeri competenti. Quindi dovesse essere questo, bravi ma non basta. Prova a sintetizzare. Sì, bravi ma non basta, ma soprattutto per quello che stavate dicendo voi dei frammenti di normalità e tutto, insomma, il tema vero e la priorità vera, con tutto rispetto di tutte le altre priorità che ci sono anche nel nostro ambiente, la priorità vera è ripartire, riaprire le porte, riavere il pubblico, avere una vita il più possibile vicino alla normalità, sempre applicando tutte quelle disposizioni e quelle precauzioni che le varie autorità ci stanno dicendo di applicare, e così come mettiamo la mascherina e teniamo il distanziamento sociale per andare al cinema, alle manifestazioni, all'aperto e spero prossimamente nelle fiere, come entrare nei ristoranti, come entrare nei bar, come viaggiare sui traghetti, sugli aerei e sui treni, e io mi auguro che applicando le stesse misure sia possibile anche entrare nei palazzetti di basket, di pallavolo, negli stadi di calcio evidentemente, e via di questo passo. La fruizione di un prodotto e di uno spettacolo sportivo non può essere lasciata solo alle televisioni se le televisioni non sono in grado di sostenerne i costi. Nel nostro caso questo è, le sponsorizzazioni e i ricavi da botteghino dei biglietti sono sì, fondamentali sono tutto, per la sopravvivenza tutto quello, del sistema. Tutto quello che vi tiene in piedi. Mi piacerebbe chiedere, Pier, al presidente Gandini che cosa ne pensa dell'attenzione che viene posta, al di là di questo che è un atto concreto, quindi registriamo e abbiamo sentito il suo commento, di che cosa ne pensa del posto occupato in questo momento dallo sport nel dibattito di questo paese. Oggi abbiamo letto anche un'intervista al Premier Conte in cui la parola sport non è stata pronunciata, come se fosse, siamo tornati indietro di un paio di mesi fa, allora si parlava del calcio di Serie A, questo è un mio parere. No, ma è obiettivamente, come dire, deprimente scoprire che una delle principali fonti, adesso non so esattamente quale, con il suo indotto della composizione del PIL di questo paese non venga considerato, e venga considerato solo ed esclusivamente quando si parla del calcio di Serie A, del campionato che ha fatto uno sforzo pazzesco per arrivare in fondo. Parlavo l'altro giorno con il mio omologo della Lega di Serie A, hanno fatto 32.000 tamponi, spese enormi, eccetera, ma giustificati dalla volontà di arrivare in fondo e dalla necessità, da un certo punto di vista, di farlo. Ora bisogna, come ha detto il presidente Gravina, pensare a che cosa succederà la prossima stagione. Noi stiamo lavorando per avere un orizzonte. Quello che notiamo è che non se ne parla. Nell'incontro col ministro Spadafora di settimana scorsa abbiamo avuto rassicurazioni sulla sua determinazione a impegnarsi in questo periodo per le riaperture e le ripartenze, e so che lo fa e cerchiamo di sostenerlo in questo, ma al di là del fatto politico non ci sono segnali di un'attenzione a questo mondo. Il CTS decide, il PERA giustamente sono gli esperti, ma alla fine la politica deve decidere. Come hanno deciso di fare certe riaperture, bisogna dare una roadmap anche agli sport. Anche allo sport. No, non c'è dubbio. No, non c'è dubbio, secondo me c'è un mix di elementi, perché la situazione non è facile. Il governo si è trovato di fronte a delle enormi, però è anche vero che anche da parte della tanto vituperata Europa, da parte di alcuni, sono arrivati contributi importanti. Cioè, siamo di fronte a una grande emergenza che però ha offerto, offre oggettivamente dal punto di vista proprio dei soldi, delle risorse a disposizione, degli strumenti straordinari. E soprattutto è giusta la sottolineatura di quello che ha fatto il calcio, di quello che gli altri presidenti delle leghe stanno cercando di fare. Cioè, questo è un mondo che alla fine non chiede neanche niente di particolare. Cioè, non è un mondo assistenzialista il mondo dello sport, è un mondo abituato sempre a vivere di se stesso e che chiede semplicemente di poter in sicurezza. E questa chiaramente non è una partita semplice, è una partita delicata, sfugge la delicatezza, il virus è ancora in giro, però è anche vero che il virus era in giro, ci siamo preoccupati per i festeggiamenti dei tifosi del Napoli, faccio un esempio, quella notte lì fortunatamente certo, non è successo più nulla. Io sono preso tanti traghetti quest'estate, ho visto tanta gente civile con la mascherina, nel palazzetto dello sport si può andare con la mascherina come si va in treno o come si va in aereo, non sarà il massimo della vita, ma è meglio che non andarci. Quindi io credo che questo sia il buon senso che il mondo dello sport chiede, proprio perché è un tipo di mondo che non vive di assistenzialismo, che non vuole gli aiuti, ma vuole semplicemente essere messo nelle condizioni di poter fare il suo e di poter vivere del suo. Presidente, scusa se ti interrompo, ma il primo ministro Conte ha detto che la mascherina ormai è parte di noi, è una precauzione necessaria, il lavarsi le mani, il controllo della temperatura, il distanziamento sociale. Ora, se facciamo tutte queste cose, possiamo anche riaprire i palazzetti. Se ci dicono che ci deve essere l'X%, benissimo, poi saliremo seguendo i dati, asseconderemo quello che ci dirà il virus, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, lo sappiamo benissimo che il giudice ultimo è l'epidemia, il giudice ultimo è il virus e il suo percorso. E lo abbiamo subito sulla nostra pelle, ci siamo fermati, siamo stati in lockdown, poi siamo ripartiti, tutto quello che è stato fatto ha portato dei risultati, ci mancherebbe altro. Ora però è necessario guardare la realtà parla di numeri molto diversi, le evidenze cliniche sono molto diverse da allora, sicuramente non è il caso di abbassare la guardia, ma nello stesso tempo le attività devono ripartire. E questo vale ovviamente anche per lo sport di cui noi ci occupiamo. Siamo praticamente alla pausa, quindi chiedo 30 secondi a Umberto Gandini, che effetto ti fa vedere come si stanno preparando le squadre alla prossima stagione? Noi prima abbiamo sentito Gigio D'Atome, insomma, campionato di Serie A, quando ripartirà avrà comunque anche dei contenuti tecnici di alto livello. Ma assolutamente sì, infatti un grande applauso alle squadre che, nonostante l'incertezza del momento e la mancanza di pianificazione, sono riuscite a fare degli investimenti importanti. È sicuramente anche una conseguenza di come il mercato ha reagito al Covid-19 e alla pandemia, quindi ci sono state possibilità anche magari di portare in Italia giocatori che prima non consideravano l'Italia un punto da visitare. Oggi invece abbiamo squadre, non è soltanto Milano o la Virtus Bologna, Sassari, Venezia, ma anche Brescia ha fatto dei grandi sforzi, gli sforzi di Roma, Pesaro e Cremona sono importanti per poter avere comunque 16 squadre al via del campionato e attrezzate per far bene. Abbiamo 9 squadre su 16 nelle coppe europee, anche questo è un segnale di vitalità del nostro movimento. Non vedo l'ora di vederli giocare e spero che anche il pubblico possa avere l'opportunità di vederli giocare di entrare in quei palazzetti. Va bene, dobbiamo fermarci. Il senso profondo dell'imprenditorialità, se mi posso permettere, perché fare gli investimenti è sempre un rischio, farli in un momento come questo, anche se qualche opportunità ci deriva dal fatto appunto che in tutto il mondo c'è questo problema, però quello che hanno fatto le società di basket, ma quello che fa un imprenditore che lavora nel mondo dello sport oggi è veramente qualcosa che, può sembrare quasi eroico visto da fuori, no? Sì. Non lo è, ma è l'imprenditorialità nel senso più profondo e più bello del termine, cioè prendersi un rischio, avere una speranza, avere un ottimismo, una speranza fondata, e insomma credo che le istituzioni debbano nelle loro possibilità dare gli strumenti. Sì, poi arriva anche il momento, Pier, che dalla speranza si deve passare a dei progetti fondati. Aspetta, dobbiamo fermarci perché siamo in ritardo. Ciao Pier. Aspetta Umberto. Ciao Pier, a domani. Ciao ragazzi, ciao. È veramente un flash perché siamo lunghi. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Interismo, Zenga merita una panchina come l'Inter, perché dove è andato non ha fatto male e che secondo me hanno dei pregiudizi su di lui, ma Zenga andrebbe bene all'Inter. Ma io penso che all'Inter aspettino solo di risolvere con Conte per prendere Allegri. Conte, che si lamenta così tanto, che mette gli stracci in piazza, ma si rende conto che il signor Pioli ha dovuto convivere con 6 mesi da allenatore esonerato e stando zitto e lavorando si è guadagnato la riconferma? Secondo voi chi è stato più bravo, Conte o Pioli? Eccoci qui, 800 24 00 24, salutiamo ovviamente Umberto Gandini e torneremo a parlare con lui dell'approccio alla prossima stagione di basket, ma non solo, saluto Sandro Sabatini, ciao Sandro. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Secondo te è stato più bravo Conte o Pioli? Così Pioli. Partiamo da quella provocazione lì. Pioli? Beh, il numero di punti da quando Pioli entra alla guida del Milan e... quindi togliendo le giornate di Giampaolo, non c'è grandissima differenza tra i punti del Milan e quelli dell'Inter. Credo abbia fatto 41 punti nel girone di ritorno al Milan, 45 nell'anno solare 2020. Chiaro che Pioli era arrivato prima, però insomma sono comunque numeri importanti. Sì, sono numeri importanti. Poi obiettivamente sentivo uno dei messaggi audio che avete appena mandato, cioè c'è il comportamento diametralmente opposto da una parte un allenatore che ad ogni occasione ha trovato il modo per dire quello che non andava pubblicamente, ha torto o ha ragione, ma insomma pubblicamente è quello il punto che non va bene sulla società, senza far nomi precisi, lasciando intendere anche cose che nella mente del tifoso diventano anche più grandi magari di quello che sono, e l'altro allenatore invece che ha avuto un comportamento, direi che in diretta dicevo fin troppo remissivo in certi momenti, fin troppo educato. Alla fine è stata forse una delle chiavi, al di là del rendimento in campo, che ovviamente è stato il motivo per cui è stato confermato, è stata anche una delle chiavi, cioè quella capacità di estraniarsi dal dibattito esterno, Ragnik, il licenziamento di Boban, le polemiche di Maldini con Ragnik, lui è stato capace di tirare dritto e alla fine questa cosa ha pagato. Ha pagato giustamente, una volta tanto c'è un po' di merito, no? Un po' di meritocrazia. Io credo che Pioli abbia avuto addosso appiccicata l'etichetta di brava persona prima ancora che bravo allenatore, e questo alla fine, anziché essere un qualcosina in più, è qualcosa che l'ha penalizzato. Io sono rimasto allibito dalle dichiarazioni di Conte dopo l'Atalanta, sinceramente sono rimasto anche molto deluso. Ma ci credi adesso alla pace, alla tregua, alla normalizzazione? Io non so come definirla, prima ci abbiamo provato. Per fare pace, tutti possono far pace, però uno dei due almeno deve dire io ho sbagliato, scusate, non lo faccio più. Cioè, se Conte dice ho sbagliato, scusate, non lo faccio più, ho detto cose che in realtà non penso, la pace è possibile. Facciamo pace perché oltre a Hakimi mi compri Kumbulla, no. Cioè, perché non, qui non è il mercato, non è, ha detto che la società è incapace di proteggere lui e la squadra, ha detto che sono rimasti da soli, ha detto una serie di cose che poi alla fine io dico, ma quindi se la società fosse stata più brava a proteggere la squadra e Conte avrebbe vinto lo scudetto? Cioè, se lui poi dice sì, avrei vinto lo scudetto, cioè ha una sua logica, capito, quello sfogo lì. Invece, senza l'ultima parte del tipo, se la società mi avesse protetto, io avrei vinto lo scudetto, la Champions League e la Coppa Italia, poi è un'opinione, però così è rimasto, invece è sembrato soltanto un regolamento di conti di Conti anziché di Conte. Sì. Anche difficile da capire per quelli che sono fuori da Piano Gentile, da quelle stanze. Oh, intanto, dove sarai il primo settembre, carissimo Sandro? Io o sì. Conte? No, tu. Non lo so, a casa comunque, penso qui al lavoro. Consiglio, ti consiglio di prenotare una stanza in un hotel di Rimini, perché sì, è ufficiale da oggi, il calciomercato apre ufficialmente il primo settembre al Grand Hotel di Rimini. Questa è una bella notizia, perché sai, una stanza no, ma magari se l'albergo è sul mare, uno ogni tanto si ritaglia anche un po' di sole, un bel bagno rinfrescante. Tra l'altro sarà un settembre meraviglioso per l'Emilia Romagna. Magari nei prossimi giorni, lo dico a Claudia Schiattone, richiamiamo il nostro amico presidente Bonaccini, perché poi ci sarà il Gran Premio, i due MotoGP a Misano. Quindi insomma, evidentemente si cerca in tutti i modi di riaccendere il motore anche attraverso lo sport. E non fatemi ripetere quello di cui abbiamo parlato prima col presidente Ghirelli e con il presidente Umberto Gandini. Allora Sandro, 800 24 00 24, ti tengo qualche minuto con me, poi parliamo anche dei mal di pancia di Ronaldo, ma parliamo anche con gli amici da casa. Pierluigi da Torino. Sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao, buon pomeriggio a te. Complimenti per la trasmissione e anche per gli ospiti che ogni volta invitate. Io volevo avere una vostra opinione sulle due genovesi, sul Genoa e la Samp, che da qualche anno che soffrono a livello di classifica e hanno problemi societari. Come avete già detto nelle altre trasmissioni, Genova, come altre città, Torino e Milano, hanno bisogno di due squadre all'altezza della tifoseria. E volevo sapere cosa ne pensate a livello soprattutto societario. Grazie Pierluigi. Beh, intanto a me spiace che vada via Nicola, se come sembra andrà via. Non so Sandro, tu cosa ne pensi della Genova del calcio? Ma della Genova del calcio, io penso che la Genova del calcio è stata grande con la Sampdoria quando c'è stato come presidente Mantovani, ed è stata grande quando c'è stato come il Genoa, quando c'è stato un presidente che da giovane aveva molto, molto da dire, ecco, diciamo così. Poi ha perso un po' di entusiasmo, di voglia eccetera eccetera col passare del tempo, e mi riferisco comunque a Spinelli. Il calcio è cambiato, dico una grande banalità, perché è aumentato il gap, famoso distanziamento tra le grandi squadre e le piccole, e purtroppo Genoa e Sampdoria sono capitate tra le piccole. Detto questo, io penso che sia fondamentale da parte di chi guida Genoa e Sampdoria un tentativo per accorciarla questa distanza. Io credo che sì, l'ascoltatore ha ragione, sicuramente la distanza va accorciata. È chiaro che se devo dire che prima o poi il Genoa tornerà in Europa League o in Champions League come fece in quell'anno magico di Scuravi, Aguilera e Branco, oppure a Sampdoria tornerà a vincere lo scudetto e la finale Champions League, sì, andare a Wembley, difficile. Andare a Wembley dico di no, perché è praticamente impossibile adesso. Sì, ma poi c'è l'Atalanta che ti spiega che non è vero, però è anche vero che l'Atalanta è l'eccezione e la norma ormai è un'altra, no Sandro? Sì, penso anch'io. Penso anch'io che l'Atalanta sia l'eccezione e la norma un'altra, ecco, l'hai già detto tu. Sì, perché sai, poi tutti noi, ma io per primo, noi diciamo certamente non accadrà, coniamo dei verbi al futuro, poi arriva l'Atalanta e ti cambia in 5 minuti, ma non in 5 minuti, perché c'è tanto lavoro e tanta programmazione, ti cambia un po' tutto lo scenario. Vitaliano da Pesaro, Vitaliano. Ciao, pronto? Ciao, vai. Ciao Giovanni, io sono un tifoso juventino e sono per Sarri out fin dalla prima ora. Temo che passando il turno, che io vorrei con Lione, che io sarei ben lieto, però passando il turno Sarri potrebbe rimanere anche la prossima stagione. è non proprio una cosa che non digerisco. Abbiamo visto una Juventus in questa stagione che ha fatto letteralmente deprimere i tifosi, ne ha fatti tutti i colori, i giocatori che giocano sicuramente contro l'allenatore. Quindi io vorrei che passasse il turno, andasse anche avanti, ma però alla fine la società, con la certezza che Sarri tenesse ben in mente che i tifosi se ne sono rotto. Io non so che cosa ne pensi tu, Sandro, al di là della postilla che non è detto che giochino contro Sarri, questo può, esatto, può sembrare no, un tifoso, io, allora, però non c'è evidenza. Sandro, a questo tifoso lo devo fare un bel rimprovero, perché un tifoso non può mai dire io spero che non vinca con Lione perché se no resta Sarri, perché non è un tifoso. E potrei aggiungere anche delle cose anche, diciamo così, spiacevoli per l'ascoltatore che ha telefonato, perché magari era un ascoltatore che telefonava anche l'anno scorso con Allegri. In generale però non devo dire che una base di verità e di strategia aziendale c'è anche nelle parole di questo tifoso. Mi spiego. La valutazione che la Juventus deve fare su Sarri, la Juventus società, ovvero Agnelli, Paratici, Nedved, deve essere una valutazione a tutto tondo, a 360 gradi, sul campionato, sulla Champions League, sulla Coppa Italia, sulla gestione degli uomini, sulla stagione. Non può dipendere da una partita o, andando oltre il Lione, come penso la Juventus andrà, da tre partite, seppur importantissime, di Champions League. Cioè, dopo un anno, un tuo dipendente, un tuo collaboratore, un tuo manager... devi essere in grado di pesarlo. Sì, di pesarlo, di valutarlo e di decidere in base a quello che hai visto durante tutto l'anno. Perché se tu basi tutto su una partita, poi la partita veramente... citando Mazzarri, a un certo punto è arrivata, è iniziata certo, a piovere. Può decidere anche il fatto che piova. Restando nel mondo Juve, Sandro, io non so che impressione ha dato a te leggere ieri da France Football, non smentito, quindi insomma noi ne parliamo anche oggi dei mal di pancia autunnali e invernali di Ronaldo. A me ha un po' colpito il giudizio che è stato riportato su Allegri, un politico agli ordini, e su Sarri più competente di Allegri, ma anche un oggetto non identificato, sto leggendo, da France Football, un figlio di operaio testardo che sta alla vecchia signora come un marziano a una ricca ereditiera. Ma guarda, io sinceramente Ronaldo non poteva smentire una cosa, perché non c'è niente tra virgolette, è una ricostruzione del giornalista, questi commenti sono del giornalista, sono della testata. Però racconta di essere stato a cena, abbastanza circostanziato, poi scrive non sulla Gazzetta della Martesana, con rispetto della Gazzetta della Martesana, ma su France Football. Ma guarda, che Ronaldo... come tutti, allora noi abbiamo iniziato questa trasmissione parlando di Conte, no? Conte comunque i suoi sfoghi sono in ebollizione, quindi capito, partono non all'improvviso, ma in ogni caso, guarda caso, partono dopo un risultato significativo, che sia una sconfitta o che sia tipo il secondo posto di Bergamo, e non dopo un risultato nella norma. Ecco, quindi che Ronaldo abbia dato durante la stagione dei segnali di insofferenza, sa, si dice, è agli atti che questi segnali di insofferenza da parte di un allenatore possono essere più duraturi rispetto a quelli di un giocatore, altrettanto agli atti per come abbiamo conosciuto la storia del calcio. Cioè Maradona voleva lasciare il Napoli ogni anno, poi dopo non lo lasciava mai. Sì, poi è rimasto e ci ha fatto la parte più importante della sua carriera. La storia del calcio è piena di queste cose. Sinceramente, poi ecco, dico una cosa in esclusiva per tutti i convocati, perché magari non la ripeterò. Io credo di aver visto durante la stagione un po' di insofferenza di Ronaldo nei confronti della Juventus di Sarri, ma anche un po' di insofferenza della Juventus di Sarri nei confronti di Ronaldo, ecco. Infatti il grande tema potrebbe essere nelle prossime settimane, in quella piccolissima pausa che ci sarà tra la fine del calcio giocato e l'inizio del calcio giocato, ma stiamo veramente parlando di qualche giorno, se eventualmente un addio anticipato di Ronaldo alla Juventus potrebbe essere l'occasione per far veramente partire un nuovo progetto Juventus, anche più libero dal punto di vista tattico, posto che poi Ronaldo è un grandissimo calciatore, quindi averlo per carità è meglio che non averlo se guardi i numeri, però da altri punti di vista può essere condizionante. Guido da Milano, Guido. Grazie per la partecipazione, sono contento di parlare con Sabatini, che ho avuto modo di conoscerlo quando anche nel calcio ho lavorato per tanti anni. Volevo fare due domande veloci. La prima sull'Inter, e le faccio una domanda. De Zerbi, se avesse allenato l'Inter con quella squadra, Sandro, pensi che avrebbe fatto come Conte o forse meglio di Conte? Perché io ho visto un Sassuolo giocare un gran calcio, io ho visto un Inter giocare solo di rimessa con questo fenomeno davanti, Lukaku che fa sponda, e l'Inter ha fatto tantissimi gol su palla inattiva, perché nella costruzione del gioco l'Inter fa un po', è molto volabile. E la cosa sulla Juventus, hanno massacrato tanto Sarri, però nessuno si dimentica, si dimenticano che Sarri è stato un mese e mezzo malato e non ha fatto il precampionato con la Juventus. C'è stato il Covid, ha perso 5 giocatori importanti, 2 della difesa, un Khedira che per lui era fondamentale, un Pjanic a mezzo servizio, ha perso De Gal Costa, ha perso Higuain per tanto tempo, ha avuto molti giocatori che sono andati un po'... Sì, e qualche poi spiegazione da dare per le sue difficoltà. Ci sono troppe cose che stanno massacrando la Juve, perché io non sono né juventino né interista, io sono uno che amo il calcio, guarda, facevo i report delle partite, guardo il calcio nei dettagli. E poi se c'è uno che non si deve lamentare degli arbitri è stato Conte, perché è stata la squadra più vantaggiata, non gli hanno dato dei rigori su palle di mano, rigori non dati. Vabbè, Guido, ti prego, però eviterei che ci mettiamo qui a fare il conto di chi è stato più o meno avvantaggiato. Tutto il resto lo prendo, questo per favore no, perché altrimenti andiamo a casa domani mattina. Vai, finisci. Si compensano, quello lo so. Però, come dico, sono convinto che Conte ha fatto tanto, però con quella squadra uno come De Zerbi, come Juric, avrebbero fatto Dai, altrettanto. Sentiamo Sandro. Io penso che Conte alla fine, e questo è il mio parere, poi sentiamo Sandro Sabatini, e lo dico prima, interpretando la stagione come una cronometro ciclistica, abbia più o meno spremuto tutto quello che poteva spremere dai suoi muscoli, dai muscoli della sua squadra. Sandro. Ma dunque, andiamo con ordine. Il giudizio sul partiamo dall'ultimo, il fatto dei rigori dell'Inter. Io sinceramente non sono d'accordo. L'Inter, cioè, quest'anno mi sembra che sia stato un campionato obiettivamente abbastanza anonimo, perché il fatto che anche con i falli di mano hanno trattato tutti uguale, io credo che c'è solo una squadra al limite può un pochino lamentarsi, ed è la Fiorentina. Poi per il resto mi sembra che sia stato anche tutto ben, come dire, compensato. Erano mediamente scontenti tutti, questa è garanzia, esatto, di solito. Poi come valutare il lavoro di Sarri? Io, sai, Sarri, fammi fare una battuta: quando lui ha avuto l'influenza, la polmonite eccetera eccetera, le prime due partite della Juventus le giocò mica male, l'impressione su Sarri che preoccupa i tifosi juventini o gli osservatori juventini è che è sembrato un lento ma obiettivamente inesorabile declino, cioè un piccolissimo peggioramento di partita in partita. Il meglio si è visto nell'autunno. Capito. A me viene in mente la partita San Siro contro l'Inter, la partita Madrid contro l'Atletico, anche se poi è terminata 2-2, ma una grande partita della Juventus di Sarri. Grande partita con due gol in contropiede, però Giovanni. Sì. Con due gol in contropiede. Cioè, ma non è un delitto, Sandro, giocare in contropiede, anche per Sarri. Solo che in altri tempi, che ne so, capito, viene da dire Ancelotti i primi tempi ha sfruttato il lavoro di Sarri. Lì nessuno s'azzardò di dire Sarri ha sfruttato il lavoro di Allegri. No? Ti dirò, noi ospitammo allora Alberto Zaccheroni, che dopo un po' di Juventus di Sarri disse scusate, ma se voi analizzate le partite e guardate i fondamentali, questa è la Juventus di Allegri. Certo. E allora si parlava già di sarrizzazione della Juventus, ed evidentemente aveva ragione Zaccheroni e quelli che poi piano piano hanno provato ad analizzare in maniera un po' più approfondita quello che stava succedendo in campo. Sandro, ti saluto che c'è il traffico, grazie. Va bene, ciao. Ricordi Rimini, Rimini, primo settembre, Rimini. Ciao, ciao. Allora, traffico, torniamo e poi parliamo di tennis. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Dear tennis, let's take a breath here and remember what's important, which is health, and safety. I will not be playing this year at the US Open. It hurts me at my core not to be out there competing in one of the sport's greatest arenas, Arthur Ashe Stadium. But I'm sitting out for the people, for the hundreds and thousands of Americans who have lost their lives. It's my decision, like it or not. Yours sincerely, Nick. Quello che abbiamo sentito era Kyrgios che annunciava la sua non presenza agli US Open, 31 agosto 13 settembre le date, se si giocherà. Poi ieri gli US Open che già hanno perso Federer, poi ieri abbiamo scoperto che anche Nadal non ci andrà. Saluto Paolo Bertolucci, ciao Paolo. Buongiorno, buongiorno. Oh, un evento epocale, era dal secolo scorso, e cioè dal 1999, che Rafa e Roger si assentavano insieme dallo stesso slam. Sì. Motivi diversi, diciamo. Sì, nel senso che motivi diversi, quelli erano anche motivi di inizio carriera, stavamo parlando di due ragazzi. Questo se vogliamo conferma anche l'assoluta anomalia e emergenza di questa stagione, che per il tennis anomalia ed emergenza non è per nulla finito. No, assolutamente. Noi abbiamo la fortuna che non è uno sport di contatto, però c'è il discorso che giochi una settimana a New York, una a Parigi e una a Tokyo, e di conseguenza il mondo in questo momento non permette questi spostamenti continui. Le quarantene da questo punto di vista giustamente ci sono, ma vuol dire uccidere il tennis. Di Federer lo sapevamo che causa infortunio al ginocchio avrebbe saltato tutta questa parte della stagione. Di Nadal devo dire cioè sorpresa zero. Arrivano immagini dalla Spagna, dove lui è almeno un mese che gioca sulla terra battuta, quindi non capisco come qualcuno potesse ancora pensare che sarebbe andato a giocare a New York. È in testa Parigi. In testa Parigi, e poi adesso che è saltato Madrid, 99 su 100. Io prima avevo paura che facesse Madrid, saltasse Roma per giocare poi Roland Garros, perché a giocare 5-6 settimane di fila sarebbe troppo anche per lui. Adesso senza Madrid secondo me ci sono grandi possibilità che lui faccia sia Roma che poi naturalmente Roland Garros. A proposito di Roma, informo gli amici a casa, informo anche te, oggi il presidente della Federtennis Binaghi ha raccontato che l'ATP ha chiesto di allungare gli internazionali di Roma 3 giorni in più, quindi ai 10 giorni con 96 iscritti, e ha detto se ne può parlare a patto che ci facciano entrare un po' di pubblico, altrimenti con i costi non ci stiamo. Cioè diventerebbe una sorta di quasi slam. Beh, sarebbe bellissimo, nel senso che faresti veramente il quinto torneo, poi quest'anno il quinto torneo più importante del mondo, perché sono anni che viene sbandierata questa cosa e non è assolutamente vero. In questo caso sarebbe veramente, dopo gli slam, il torneo più importante dell'anno, quindi speriamo che da qui a c'è ancora un poco più di un mese le cose vadano meglio e che si possa, come dire, avere un po' di pubblico e fare questo torneo 10 giorni, che sarebbe una cosa semplicemente fantastica. Sì, sarebbe l'anello di congiunzione tra il Master 1000 e lo Slam, qualcosa che non, di per sé non abbiamo mai visto, comunque visto poco in passato. Questa sarà anche una stagione, quando partirà e per quello che durerà, che sarà una stagione che non abbiamo mai visto, sarà un brandello di stagione con gerarchie tutte da scrivere. Sì, ma questo è tutti gli sport è così, insomma, perché non è che mi potete, come dire, convincere che il calcio giocato questi ultimi mesi e mezzo o giocando ogni 3 giorni eccetera sia, come dire, quello vero. Di conseguenza anche il tennis, come gli altri sport, ci sono delle regole da rispettare, senza pubblico, con situazioni completamente nuove e diverse, con giocatori d'altronde i vincitori dello scorso anno degli US Open, l'australiana Barty e Nadal, non si presentano. Allora, è caduto Paolo Bertolucci, adesso cerchiamo di recuperarlo. Si sta giocando, tra l'altro, intanto a Palermo, torneo femminile, poi vedremo di capire da Paolo che tennis sta vedendo. Intanto Piero da Como. Piero. Sì, buongiorno Giovanni. Ciao, buongiorno. Volevo chiederti, visto che tu riesci forse a capire Conte, la sua mentalità, no? Ma lui dopo la partita con l'Atalanta ha detto che nessuno salga sul carro. Sì. Ma il carro dei perdenti. Che cosa ha vinto? È arrivato secondo con una squadra pronosticata come seconda forza del campionato. cioè, su che quale carro devono salire i dirigenti? Beh, tecnicamente Piero, riuscire a raggiungere un obiettivo è comunque un successo, se non sportivo aziendale, non sportivo certamente perché non ti consegna nessuna medaglia e nessuna coppa, aziendale certo perché significa aver valorizzato il progetto fatto un anno prima e anche tutti gli sforzi che sono stati compiuti. Io non sono d'accordo con Conte quando dice il secondo è solo e sempre il primo dei perdenti. Alle volte il secondo è anche qualcuno che ha lavorato bene e messo le basi per poter vincere in futuro, in un futuro non troppo lontano. Però evidentemente Conte la pensa diversamente e poi insomma ne abbiamo straparlato da domenica. È stato un regolamento di Conti ad uso interno molto difficile da comprendere anche per chi sta fuori da Piano Gentile. Allora abbiamo recuperato Paolo Bertolucci. Paolo, che tennis stai vedendo a proposito? Perché si sta giocando qualcosina, si sta cominciando, si gioca a Palermo per le donne. Sì, si fa fatica, come naturale che sia, insomma, dopo così tanto tempo, anche se molti giocatori si sono allenati duramente, però insomma la gara poi è una cosa diversa, bisogna riprendere confidenza e poi anche, come dire, assorbire almeno all'inizio l'assenza del pubblico. L'unica cosa positiva è che con meno raccattapalle la smetteranno a ogni punto di chiedere l'asciugamano. Che a te non piace, ma ce l'avevi già raccontato un paio di mesi fa. Sì. Non è cosa che ti piace, va bene, grazie Paolo. No, assolutamente, io trovo una cosa, può capitare, ci mancherebbe altro nel corso del match, ma che dopo 7 secondi dall'inizio già siamo con l'asciugamano, sì, la trovo, è soltanto un tic nient'altro. Effettivamente quello sembra è diventato un modo per cadenzare il gioco. Grazie Paolo. Grazie. Ciao, grazie a Paolo Bertolucci. Allora, noi ci fermiamo qui per oggi. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleone in regia, Gianmarco Ferronato per i montaggi. L'appuntamento è per domani alle 14 e come al solito staremo insieme fino alle 15.30. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Grazie ragazzi, grazie, andate in vacanza, divertitevi perché ve lo meritate. Ok. Saluti!